l'odore dei campi più acre e sospinto dal paremoto. Sogno le notti incantate, culate dal silenzio, ma è troppo suadente. Non voglio.